Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Quanto è importante l'inglese per fare il commesso e per fare il programmatore? Domande alle quali fino ad oggi abbiamo risposto soprattutto con il buon senso. Oggi invece, potenza dei computer, è possibile scandagliare internet e analizzare centinaia di migliaia di inserzioni lavorative, in pratica tutte, arrivando a restituire una fotografia costantemente aggiornata e allo stesso tempo più approfondita del mercato del lavoro. E quanto si è fatto con l'osservatorio mercato del lavoro presentato all'Università di Milano Bicocca nel corso del lancio di Wallaby. Wallaby è una piattaforma digitale sviluppata da Tabulex, spin-off dell'Ateneo milanese, in collaborazione con il CRISP, Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità. Si tratta in pratica di un osservatorio digitale dei servizi. Ne parliamo con il professor Mario Mezzanzanica, docente di sistemi informativi all'Università della Bicocca e direttore scientifico del CRISP. Buonasera Mezzanzanica. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Dunque, voi appunto spulciate il web alla ricerca di inserzioni con offerte di lavoro. Per tirar fuori che tipo di dati, che cosa andate a cercare? Considerate che noi utilizziamo l'analisi semantica per estrarre informazione da testi scritti in linguaggio naturale, quindi in formato libero. La cosa più importante è certamente quella di recuperare sotto diversi profili dimensionali analitici e legati alle skill, quelle che sono le professioni richieste del mercato del lavoro. E quindi il punto fondamentale è cercare di capire oggi il mercato del lavoro cosa sta richiedendo, osservandolo per come le aziende richiedono le professioni. Ecco, non è tanto andare a vedere se si assume di più in un settore o in un altro, se sono più ricercati, non so, gli operai specializzati, ma cercare di capire quali sono le competenze, i profili, no, richiesti per le varie professioni. È così. Infatti la cosa interessante, ad esempio, è vedere che le professioni tecniche sono certamente le più richieste. Per capirci, nel periodo osservato abbiamo oltre 190.000 annunci di professioni tecniche, e per professioni tecniche si intende i tecnici delle scienze quantitative, gli informatici, gli ingegneri, i tecnici delle attività turistiche. Ci sono diverse professioni e noi possiamo vedere come queste sono richieste sia in termini quantitativi generali, quali sono le competenze associate a queste richieste e possiamo vedere dove nel territorio vengono richieste, fino al livello comunale. Che differenza c'è fra questo tipo di analisi che voi fate sostanzialmente lanciando una rete nella rete e raccogliendo e analizzando un po' tutto rispetto alle statistiche che comunque sono sempre esistite sul lavoro? Beh, la differenza fondamentale è un po' questa. Quando si fanno delle statistiche si fanno delle richieste su dei campioni e per fare una richiesta, un'indagine, bisogna dire prima cosa si chiede. In questo caso noi andiamo a vedere cosa invece esce direttamente dal mercato del lavoro, come l'azienda sta richiedendo il profilo professionale. Senta, una domanda. Di recente sembra che ci sia stato finalmente, dopo anni di numeri negativi, un dato positivo sull'occupazione che fa sperare, naturalmente la speranza è gratis, in una ripresa complessiva del mercato del lavoro. Ecco, voi vedete qualcosa in termini quantitativi o qualitativi? Allora sì, stiamo osservando anche da due punti di vista. Il primo è quello delle assunzioni vere e proprie che vengono effettuate ai datori di lavoro, che stanno un po' crescendo soprattutto nelle figure di medio-alto livello di competenze, quindi diplomati e laureati. E in secondo luogo, anche dagli annunci di lavoro stiamo osservando una continua crescita soprattutto negli ultimi periodi, quindi è proprio un timido ma positivo segnale di ripresa. Ecco, assieme all'aspetto quantitativo vedete anche un aspetto qualitativo? Quello che si nota è che la competenza tecnica è molto richiesta, però prevalgono molto le competenze cosiddette cognitive, le soft skill, le attitudini, le capacità di lavorare in gruppo, le capacità di gestire situazioni in autonomia. La flessibilità lavorativa, uno dei termini che sta emergendo di più. Senta, se dovesse immaginare l'utente tipo di questa piattaforma, ecco, chi ci vedrebbe? Allora, noi per ora l'abbiamo immaginata soprattutto per gli operatori del mercato del lavoro, per ridisegnare quelle che sono le politiche a sostegno e sviluppo del mercato del lavoro da parte delle istituzioni. per le realtà che si occupano di formazione o di istruzione professionale, per disegnare percorsi formativi e interventi formativi specifici rispetto alla domanda del mercato del lavoro odierno, e poi per tutti gli operatori dei servizi, per poter ridurre quello che si chiama il mismatch, cioè la difficoltà nel far incontrare la domanda offerta. Grazie professor Mario Mezzanzanica. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento domani sera. Buona serata.